penso che gli amici ascoltatori se ne saranno accorti da tempo, perché soltanto l'autorità garante è dal 2015 che è intervenuto sul tema delle tariffe applicate sui 28 giorni. Ed è singolare questa cosa, perché nel 2015 l'autorità garante disse che in sostanza gli operatori avevano diritto di applicare questo tipo di modifica alla durata della tariffazione, e si limitò a sanzionare soltanto Telecom Italia, perché disse che comunque dovevano essere ben informati e forse Telecom non li aveva informati con chiarezza di questo passaggio, di questo cambio tariffario. Quindi nel 2015 era tutto ok. Improvvisamente nel 2017 a marzo una nuova delibera dell'autorità garante si rende conto che nel momento in cui ha legittimato in passato per i telefoni mobili questa prassi, improvvisamente gli operatori avevano cominciato a modificare tutte le tariffe portandole a 28 giorni, e questo forse sarebbe il caso di dargli un nome diverso a questa prassi, cioè cartello, perché a quel punto se tutti gli operatori applicano questa modifica finisce che il povero consumatore non può che arrendersi, non ha l'alternativa di cercare con la libera concorrenza un trattamento migliore. E allora è arrivata anche il provvedimento dell'autorità che diceva entro 90 giorni avete l'obbligo di riportare, di ritornare al modello tariffario mensile. E cosa hanno fatto le compagnie? Come si fa in Italia? Hanno subito impugnato al TAR, e quindi la situazione da un punto di vista legale è bloccata in attesa che il TAR definisca la situazione. Però sono da ormai 2-3 anni che le compagnie lucrano da questo punto di vista, e le statistiche dicono che anche semplicemente al di là del piano tariffario, ovviamente ognuno paga i suoi importi, l'8% di aumento che comporta su base mensile la riduzione a 28 giorni sono soldi, sono gran soldi che loro comunque intanto si sono intascati. Non dobbiamo farci colpire troppo dal fatto che magari esca fuori la sanzione, come ad esempio è successo ad agosto, che ha imposto a Wind il pagamento di 500.000 euro, perché quelle sanzioni, sia quelle dell'autorità garante delle comunicazioni, sia quelle che capitano anche spesso con l'antitrust, sono messe nel conto, anzi direi a bilancio, da parte degli operatori di telefonia. Quindi il sistema in realtà va avanti in maniera, diciamo così, lineare rispetto a quello che è l'orientamento, e neanche le parole di Calenda mi sembra che possano rappresentare un elemento di novità o di diversità rispetto al passato, perché ormai è dalla legge Bersani del 2007 che non vediamo una nuova norma favorevole al consumatore in materia di telefonia, e lo stesso Calenda da poco ha visto l'approvazione del DDL concorrenza, ne avrete sentito parlare, che conferma modalità penalizzanti per il recesso dei contratti telefonici rispetto alla legge Bersani, che diceva non si possono applicare penali quando cambia operatore, al massimo si possono applicare dei costi vivi, però i costi vivi non sono mai stati quantificati a norma di legge da parte degli operatori di telefonia, che invece, guarda caso, si sono sempre appoggiati sull'autorità garante per ottenere avallo da quella che era la loro politica. Dobbiamo aspettarci che ci siano delle novità importanti da parte del legislatore. Veniamo proprio, come dire, nelle tasche dei consumatori. Quali svantaggi ha una fatturazione a 28 giorni rispetto a un mese? È un aumento implicito dei costi che va a ricadere sulle nostre tasche in maniera, diciamo, uniforme ormai su tutti i tipi di utenze. Io però ci tengo subito a dire una cosa: essendoci già comunque una delibera dell'autorità garante che dice che questo comportamento è illegittimo, la prima cosa che mi viene da dire è che è giusto non ingoiare il rospo e far valere i propri diritti. Quindi invitiamo tutti i cittadini che hanno visto applicato questo trattamento tariffario a fare intanto un reclamo, un semplice reclamo via fax, via raccomandata o via PEC per chi dispone già della posta certificata, dove si deve protestare per l'applicazione di questa tariffa e chiedere il rimborso dell'intera cifra. È importante oggigiorno reclamare e farlo sempre con un sistema che garantisca la prova di aver inviato la protesta, il reclamo all'operatore. Questo è fondamentale. Dopodiché, se volete, ci sono tanti rimedi anche gratuiti per ottenere poi giustizia dopo che avete fatto reclamo e dopo che eventualmente il vostro reclamo venga disatteso, che sono le cosiddette negoziazioni paritetiche completamente gratuite. Potete passare da un'associazione di consumatori come da noi con Assutenti, chiedere di poter compilare il modulo e riceverete in 60 giorni una proposta per risolvere il vostro problema, oppure potete andare direttamente al Corecom, cioè quindi all'autorità garante, che anche lì vi dà la possibilità di un ricorso completamente gratuito, dove stavolta andrete voi direttamente di persona davanti a un conciliatore dell'autorità garante e all'operatore di telefonia a chiarire il vostro problema e a chiedere un sacrosanto rimborso di tutto.